L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Sesta puntata. Orlando, Olimpia e l'Archibugio. Lettura poetica di Alberto Lupo. Narratore Gianni Bonagura. L'armata di Carlo Magno è stretta d'assedio tra le mura di Parigi. La notte le sentinelle scrutano dagli spalti i fuochi dell'accampamento saraceno che circonda da ogni lato la città. Ma non sono solo le sentinelle a vegliare. Sul suo letto da campo Orlando continua a rivoltolarsi senza poter prendere sonno. La sua mente è occupata da un pensiero che ha insieme la fissità e l'irrequietezza di un riflesso di luna sul mare increspato dalle onde. È all'assedio, alle battaglie, alle fortune dell'esercito franco in pericolo che egli pensa? No, egli è lontano dai pensieri che soli dovrebbero albergare nell'animo di un paladino suo pari, esempio di dedizione al dovere e di castità. Appena le sue palpebre cedono fuggevolmente al sonno, è sempre la medesima immagine che gli appare, angelica. Egli non sa pensare ad altro, non sa far altro che smaniare perché l'ha perduta e non sa dove sia. In sogno, Angelica sta danzando su una riva fiorita. Ed ecco abbattersi una tempesta, un turbine di vento che sparpaglia foglie e corolle, e quando il turbine trascorre, Angelica è sparita. Orlando si risveglia in lacrime. Forse questo sogno è un avvertimento. Forse Angelica è in pericolo. Il paladino si butta giù dal letto, si veste di piastre e maglie di ferro e per sopravveste, invece di quella bianca e rossa dell'esercito franco, ne indossa una nera, che era appartenuta a un ufficiale saraceno ucciso in battaglia. Così potrà attraversare il campo nemico senza darne l'occhio. Sella il suo cavallo briglia d'oro, passa silenziosamente davanti alla tenda di suo zio Carlo Magno e, senza chiedergli il permesso, di nascosto, esce da Parigi alla ricerca d'Angelica. Che non può far d'un cor ch'abbia suggetto questo crudele e traditore amore, poi che ad Orlando può levar del petto la tanta fe che debbe al suo signore. Già savio e pieno fu d'ogni rispetto e della santa chiesa difensore, or per un vano amor poco del zio, e disse poco e men cura di Dio. Ma le scuso io purtroppo, e mi rallegro nel mio difetto aver compagno tale. Ch'anch'io sono al mio ben languido ed egro, sano e gagliardo a seguitare il male. Quel se ne va tutto vestito a negro, né tanti amici abbandonargli cale, e passa dove d'Africa e di Spagna la gente era attendata alla campagna. Anzi, non attendata, perché sotto alberi e tetti l'ha sparsa la pioggia a 10, a 20, a 4, a 7, ad 8, chi più distante e chi più presso alloggia. Ognuno dorme travagliato e rotto, chi steso in terra e chi alla man s'appoggia. Dormono, e il conte ucciderne può assai, né però stringe Durindana mai. Di tanto core è il generoso Orlando che non degna ferir gente che dorma. Or questo è quando quel luogo cercando va per trovar della sua donna l'orma. Se truova alcun che veggi, sospirandogli ne dipinge l'abito e la forma, e poi lo priega che per cortesia gli insegni andare in parte ov'ella sia. E poi che venne il dì chiaro e lucente, tutto cercò l'esercito moresco, e ben lo potea far sicuramente, avendo indosso l'abito arabesco, e t'aiutollo in questo parimente, che sapeva altro idioma che francesco, e l'africano tanto avea espedito, che parea nato a Tripoli e nutrito. Quivi il tutto cercò, dove dimora fece 3 giorni e non per altro effetto, Poi dentro alle cittadi e a borghi fuora, non spiò sol per Francia e suo distretto, ma per Uverni e per Guascogna ancora rivide sino all'ultimo borghetto, e cercò da Provenza alla Bretagna e dai Picardi ai termini di Spagna. Tra il fin d'ottobre e il capo di novembre, nella stagion che la frondosa vesta vede levarsi e di scoprir le membre trepida pianta finché nuda resta, e van gli augelli a strette schiere in sembre, Orlando entrò nell'amorosa inchiesta. Né tutto il verno appresso lasciò quella, né la lasciò nella stagion novella. La guerra, Carlo Magno, le armi cristiane, Parigi assediata, devono pazientare un momento, finché il loro più valoroso paladino non abbia portato a termine la sua inchiesta amorosa. È un momento d'attesa che già si prolunga dall'autunno alla primavera, ma Angelica non si trova in nessuna provincia della Francia occupata dai Mori. Per via d'esclusione, Orlando si convince che deve essere al di là della Manica. E se fosse finita nel Mar d'Irlanda, nell'isola di Ebuda, dove incatenano ogni giorno una fanciulla a una roccia perché venga divorata da un mostro marino. Basta questo agghiacciante sospetto perché Orlando s'affretti a imbarcarsi a Saint-Malo. Ma il vento maestrale impedisce alla barca d'avvicinarsi alle bianche scogliere d'Inghilterra e la risospinge indietro fin sulla costa fiamminga. Orlando sbarca ad Anversa. «Finalmente un cavaliere errante!» esclama un vecchio che pareva stesse lì sul molo ad aspettarlo. «Seguimi, ti scongiuro, che Olimpia, contessa d'Olanda, attende il tuo soccorso!» Orlando in verità avrebbe fretta di ripartire alla ricerca d'Angelica, ma non è certo uomo da tirarsi indietro. Corre a mettere le sue armi al servizio d'Olimpia, che gli racconta la sua tremenda storia. Cimosco, re di Frisia. Avendo Olimpia rifiutato la mano di suo figlio, ha invaso l'Olanda e l'ha messa a ferro e a fuoco. Questo sovrano prepotente e superbo si fa forte di un'arma micidiale, l'arma del futuro, destinata a trasformare le guerre in carneficine e a metter fine alle gentili imprese della cavalleria, l'archibugio. È un'impresa che nessun cavaliere errante ha voluto finora assumersi. Nessuno si sente di sfidare i proiettili infuocati contro i quali piastre e maglie di ferro non sono che fragili veli. Orlando sfida Re Cimosco a lancia e spada. Cimosco trama un agguato per prendere Orlando alle spalle e gli spara con l'archibugio, ma sbaglia la mira. È la battaglia del passato contro il futuro. Il poeta potrebbe intonare le sue note più alte, invece preferisce tenersi alla vita quotidiana intorno a lui, attingendo da essa le sue metafore, le reti dei pescatori sul Po di Volana, i richiami degli uccellatori, le rane infilzate sugli schidioni, i cinghiali degli Appennini, lo scoppio d'una polveriera. Giunge Orlando ad Ordreche e qui vi trova di molta gente armata in sulla porta. Sì, perché sempre, ma più quando è nuova, seco ogni signoria sospetto porta. Sì, perché dianzi giunta era una nuova che di Selandia con armata scorta di navili e di gente un cugin viene di quel signor che qui prigion si tiene. Orlando prega uno di lor che vada e dica al re qu'un cavaliero errante disia con lui provarsi a lancia e a spada, ma che vuol che tra lor sia patto in ante, che se il re fa che chi lo sfida cada, la donna abbia d'aver cuccise arbante, che il cavalier l'ha in loco non lontano da poter sempre mai dargliela in mano. E dall'incontro vuol che il re prometta, ch'ove egli vinto nella pugna sia, Bireno in libertà subito metta, e che lo lasci andare alla sua via.

onde mai più non sorse. Cade a terra il cavallo e il cavaliero, la preme l'un, la tocca l'altro appena, che si leva sì destro e sì leggero come cresciuto gli sia possa Elena, quale il libico Anteo, sempre più fiero, surger solea dalla percossa arena, tal surger parve, e che la forza, quando toccò il terren, si raddoppiasse Orlando. Chi vide mai dal ciel cadere il fuoco che con si orrendo suon Giove disserra e penetrare ove un richiuso loco carbon con zolfo e con salnitro serra, ch'appena arriva, appena tocca un poco che par cavampi il ciel, non che la terra, spezza le mura e i gravi marmi svelle e fa i sassi volar sin alle stelle, s'immagini che tal, poi che cadendo toccò la terra, il paladino fosse. Con sì fiero sembiante, aspro ed orrendo, da far tremar nel ciel Marte, si mosse. Di che smarrito il re Frison, torcendo la briglia indietro, per fuggir voltosse, ma gli fu dietro Orlando con più fretta che non esce dall'arco una saetta. E quel che non avea potuto prima fare a cavallo, or farà essendo a piede. Lo seguita sì ratto con ogni stima di chi non vide, ogni credenza eccede. Lo giunse in poca strada, e dalla cima dell'elmo alza la spada e sì lo fiede che gli parte la testa fino al collo e in terra il manda a dar l'ultimo crollo. Nel momento in cui Cimosco stramazza con la testa spartita in due, entrano in Dordrecht i rinforzi dell'esercito di Selandia e sterminano i Frisoni. L'Olanda è liberata. Olimpia e Bireno s'abbracciano. Orlando ha portato a termine l'impresa e può commiatarsi. Ma prima di rimettersi sulle tracce d'Angelica, vuole assicurarsi d'una cosa: che quell'ordigno infernale sparisca dalla faccia della terra e non contesti all'arma bianca la signoria delle battaglie. Con una barca va dove il mare è più profondo e getta negli abissi archibugio e polvere e pallottole. Laggiù la macchina infernale dovrà giacere per alcuni secoli, finché il diavolo non la farà riemergere attraverso gli incantesimi d'un negromante. Ed ecco i cavalieri dileguarsi, il fumo e le vampe invadere i campi di battaglia, colubrine, bombarde, cannoni, mettere Italia e Europa a ferro e a fuoco. La macchina infernal di più di 100 passi d'acqua oveste ascosa molt'anni al sommo tratta per incantamento prima portata fu tra gli alamanni, li quali uno ed un altro esperimento facendone e il demonio a nostri danni assutigliando lor via più la mente ne ritrovaro l'uso finalmente. Italia e Francia e tutte l'altre bande del mondo han poi la crudele arte appresa. Alcuno il bronzo in cave forme spande, che liquefatto alla fornace accesa, bugia altri il ferro, e chi piccio, il chi grande il vaso forma, che più e meno pesa, e qual bombarda e qual nomina scoppio, qual semplice cannon, qual cannon doppio, qual sagra, qual falcon, qual colubrina sentono mar come al suo autor più aggrada, che il ferro spezza, e i marmi apre ruina, e ovunque passa si fa dar la strada. Rendi, miser soldato, alla fucina pur tutte l'arme c'hai, fino alla spada, e in spalla un scoppio o un arcobugio prendi, che senza, io so, non toccherai stipendi. Come trovasti, o scelerata e brutta invenzion, mai loco in uman core? Per te la militar gloria è distrutta, per te il mestier dell'arme è senza onore. Per te è il valore e la virtù ridutta, che spesso par del buono il rio migliore. Non più la gagliardia, non più l'ardire per te può in campo al paragon venire. Per te son giti ed anderan sotterra tanti signori e cavalieri tanti, prima che sia finita questa guerra che il mondo, ma più Italia, ha messo in pianti. Che s'io v'ho detto, il detto mio non erra, che ben fu il più crudele, il più di quanti mai furo al mondo ingegni empi e maligni, chi immaginò si abominosi ordigni. E crederò che Dio, perché vendetta ne sia in eterno, nel profondo chiuda del cieco abisso quella maladetta anima appresso al maladetto Giuda. Abbiamo trasmesso la sesta puntata dell'Orlando Furioso di Lodovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.